Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Che cosa ci lasciamo alle spalle del decennio appena trascorso? Quali saranno i trend del futuro? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali nel primo degli approfondimenti che vi riproponiamo in questa nuova puntata dell'antologia estiva di Essere, Avere, Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Risponde a queste e ad altre domande Francesco Morace, fondatore di Future Concept Lab, laboratorio di tendenze tra i più prestigiosi al mondo. Torniamo poi a parlare di comunicazione e promozione dei prodotti di lusso in tempi di crisi, uno dei nodi intorno al quale si confronta in questo momento il settore dei consumi di fascia alta. Focus sui trend dedicato infine ai consumi ai confini della realtà, quando vero e falso, opportunamente dosati e mescolati, fanno tendenza. La borsa della spesa. La scelta è ardua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, niente, ecco, solo che quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapise, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Con il diavolo veste Prada abbiamo voluto omaggiare Meryl Streep, trionfatrice agli Oscar 2012, e giocare con le difficili alchimie che regolano tutto quanto abbia a che fare con nuove tendenze, strategie e scenari del mondo dei consumi. Quali sono i trend che ci lasciamo alle spalle e quali saranno invece quelli protagonisti dei prossimi anni? Ne abbiamo parlato con il sociologo Francesco Morace, autore del libro I paradigmi del futuro, lo scenario dei trend. Ci lasciamo alle spalle la superficialità e diciamo anche la passività dei consumatori, delle persone. Noi abbiamo vissuto per 20 anni nel paradigma precedente con l'idea che ci fossero tendenze che bisognava seguire per essere più importanti, per essere ascoltati, per sentirci, come dire, giusti. Ecco, allora questa modalità anche proprio psicologica ce la lasciamo alle spalle perché i consumatori diventano consumautori, siamo molto più attivi e molto più in grado di scegliere liberamente le nostre modalità di consumo. E quali sono le principali tendenze di consumo oggi? Partendo da questa dimensione di grande carattere di ciascuno, quindi la personalizzazione, che non necessariamente è l'inseguire la novità tutti i giorni, ma è scegliere un proprio punto di vista. E quindi, non so, per fare esempi concreti, nel mondo dell'abbigliamento sicuramente la sartorialità, il tailor made, cioè il fatto proprio per te, questo anche nell'alimentazione emerge con grande chiarezza, meno prodotto industriale e più prodotto completato, addirittura realizzato in casa con le nostre mani. Ecco, questa è sicuramente una delle tendenze più forti. Lei individua i 4 paradigmi del futuro. Quali sono? Vogliamo spiegarli agli ascoltatori? Volentieri. Allora, intanto chiariamo che un paradigma non è una tendenza. La tendenza può durare alcuni anni. Ecco, il paradigma segna un cambiamento d'epoca. Ecco, e quindi può durare 15-20 anni. Sicuramente il più importante, forse inaspettato in questa fase, è quello che noi abbiamo chiamato trust and sharing, cioè è la condivisione, il fatto che oggi i consumi più interessanti per noi vengono condivisi e non privatizzati, e le nuove tecnologie su questo sicuramente dettano la direzione. E poi questo ci permette di combinare in modo molto intelligente la velocità e la qualità. Allora, quick and deep, questo è il secondo paradigma. Oggi è importante chiarire che tutto ciò che è veloce, che entra a far parte anche delle nostre scelte, non so, il fast fashion, no, le grif che sono in qualche modo oggi molto interessate ad entrare nella quotidianità delle persone, devono però cominciare a garantire anche un valore, una qualità minima che non può essere troppo bassa. Terzo importantissimo paradigma per l'Italia è unique e universal, cioè il rapporto tra il globale e il locale. Se un tempo si diceva think globally, act locally, no? Quindi pensa globalmente, agisci localmente, oggi è quasi il contrario, cioè l'Italia può continuare a produrre e a pensare localmente, perché noi abbiamo straordinarie qualità, per esempio, che partono dal territorio, partono dalla nostra capacità artigianale che influenza anche l'industria, però per diventare globali e quindi affrontare i nuovi mercati che sono comunque globali, questa è una grande opportunità per il sistema Italia. E il paradigma, che è comunque direi una condizio sine qua non ormai, è crucial and sustainable, cioè la sostenibilità che non è più l'ecologismo militante degli anni precedenti, ma è la misura della qualità della vita, proponendo un nuovo equilibrio tra etica ed estetica, ad esempio, e anche rispettando, come dire, i diritti umani, quindi questa dimensione crucial, no, di ciò che davvero conta, è veramente oggi la base dei nuovi mercati. E la cosa interessante è che questi paradigmi convivono, quindi la stessa persona, ciascuno di noi, sempre più entrerà a lavorare e anche a vivere seguendo questi nuovi valori. Fino ad oggi in tema di nuovi trend c'è stata una certa egemonia degli Stati Uniti, oggi forse non è più così. Quali sono i paesi che trainano di più in questo senso? È proprio così, diciamo che dobbiamo ragionare in termini di multipolarità, cioè gli Stati Uniti sono comunque importanti, ma c'è ad esempio tutto il Sud America e Latino America con il Brasile, che è sicuramente il paese trainante in quest'area del mondo, che gode in qualche modo del vantaggio del ritardo, cioè non avendo vissuto come noi 30 anni di società industriale che ha in qualche modo plasmato anche i nostri desideri, con più facilità entrano, diciamo, a interpretare questi nuovi paradigmi. La condivisione, la sostenibilità, la qualità del quotidiano, ma anche accessibile, sono in effetti tratti dei nuovi consumatori brasiliani. Uno dei discorsi centrali che lei fa in questo libro è quello sulle età, sulle generazioni di consumatori. Quanto incidono le dinamiche demografiche nelle dinamiche di consumo? Incidono molto, e soprattutto da questo punto di vista l'Italia è uno dei laboratori più importanti del mondo, perché noi siamo per cultura una società intergenerazionale, come sappiamo bene, anche per motivi purtroppo tristi, ma i ragazzi rimangono a casa dei genitori fino a 35 anni, l'Italia è il paese dove i nonni trascorrono più tempo con i propri nipoti, e questo ha un versante comunque positivo, che è quello dello scambio di esperienze, e il consumo si apre ad una molteplicità, quindi ciascun prodotto, ciascuna marca può diventare poliglotta, cioè parlare diverse lingue a diverse generazioni. L'ostentazione è morta. Allora che cos'è il lusso? È il piacere che ti dà una cosa o è il fatto di possederla? A cosa serve il lusso se non riesci a godertelo? Il lusso è un diritto. Ne ho avuto abbastanza. Tornare alle origini. È questo che ho fatto. Una vita semplice. È questo che volevo. Non avrei mai pensato di tornare indietro. Allora, vi piace? Niente male. Quanto costa? 11.900 euro. Solo? Vogliamo spendere molto di più? E Erano vari spot pubblicitari legati ai prodotti di lusso che mai come in questo momento si stanno interrogando sulle corde giuste da toccare in pubblicità. I risultati, lo avete sentito, sono i più disparati. C'è chi dice che il lusso sia un diritto e chi si azzarda a sostenere che il downshifting, il ridimensionamento del proprio stile di vita, è finito. Chi cavalca la filosofia low cost, segnalandone però il suo rifiuto come atteggiamento presente dunque in una certa fascia di consumatori. Insomma, come sta cambiando la comunicazione per i beni di lusso, per i consumi di fascia alta? Come conciliarla con la sobrietà, la cosiddetta new frugality che i tempi di crisi hanno imposto? Ne abbiamo parlato con un esperto del settore, per 15 anni responsabile della comunicazione della Ferrari, Antonio Ghini, autore del libro Dal detersivo alla Ferrari, 100 modi di comunicare. Ma io credo che in questo momento del lusso si possa e si debba apprezzare quelli che è il valore profondo, il valore che è rivolto verso se stessi, cioè il lusso ostentativo, quello che è portato verso gli altri, è un lusso volgare. Questo lusso volgare in momenti come questi diventa automaticamente qualcosa che tende ad auto-escludersi, o quantomeno chi non lo capisce evidentemente si classifica come una persona che non ha capito il momento in cui si vive, mentre il lusso per se stessi è una cosa molto positiva, perché è una cosa che comunque premia gli sforzi che si fanno nel vivere per avere delle cose che comunque piacciono. Credo che il lusso debba essere visto in questa ottica oggi. C'è anche chi rischia, cercando di ribaltare questa visione improntata alla sobrietà. Ha senso, secondo lei, promuovere i prodotti di lusso comunicando la voglia di tornare a spendere? Ma io credo che non si torni mai indietro. È un discorso che ci porterebbe lontano, perché è chiaro che tutto ciò che determina acquisti e movimento di denaro porta ad uno sviluppo dell'economia, quindi da questo punto di vista ne avremo molto bisogno. D'altra parte però bisogna anche sapere indirizzare il proprio denaro. Io nel libro cito alcuni esempi di come il garbo nella comunicazione diventi sostanziale per avere efficacia nel messaggio, cioè colpire le persone con violenza può essere forse efficace sul momento, ma non lavora in profondità. Le aziende devono saper lavorare in questo momento in termini strategici, cioè tener conto che un marchio è qualcosa che si sceglie e diventa anche quello, se vogliamo, un lusso, qualunque marchio esso sia, perché la scelta di un marchio è già di per sé una scelta di campo, ma bisogna saperlo guardare nel tempo. Questo tema è un tema dibattuto nell'ambiente, cioè l'ambiente dei consumi di fascia alta si sta confrontando sulla comunicazione? Sì, si sta confrontando sulla comunicazione, ma soprattutto si sta confrontando sulla dimensione della comunicazione, vale a dire il mercato del lusso è un mercato che muove l'economia, un segmento dell'economia importante, è un mercato che è molto orientato in questo momento verso i paesi nuovi. Quando noi pensiamo alla Cina, all'India, ma anche alla Russia o al Brasile o al Sudafrica, pensiamo a paesi che hanno voglia di riscattare periodi difficili con raggiungimento di alcuni risultati. In questo caso la comunicazione, la pubblicità può andare a schiacciare, diciamo, l'acceleratore di più. In paesi maturi e purtroppo sofferenti come sono oggi i paesi dell'Europa, se io dovessi, cosa che ho fatto in passato, lavorare in un'agenzia di pubblicità, userei l'arma del lusso in una maniera molto più sottile, molto più autogratificante, molto più rivolta a se stessi che agli altri. Non deve essere un lusso che faccio vedere, ma un lusso che posso godermi. Il sogno degli anni 90 è ancora vivo a Portland. Questa è la sigla tormentone di Portlandia, serie TV cult irriverente, politicamente scorretta, sugli alternativi anni 90, i cosiddetti hipster. Serie che può permettersi il lusso, per ricollegarci al discorso di poco fa, di fare il verso al consumo critico e alle tendenze collegate, quali la sostenibilità, il riciclo, il biologico, il femminismo, il non profit. Fenomeno di nicchia anche questo, ma da monitorare per chi si occupa di marketing e comunicazione.

E a questa tendenza si rifà il genere cosiddetto mockumentary, il genere del falso documentario usato in TV, nel cinema, in pubblicità, eventi fittizi realizzati ad hoc, presentati come reali. Sul grande schermo ha fatto presa, in particolare nel genere horror, attraverso lo stratagemma narrativo del video ritrovato, da The Blair Witch Project a Paranormal Activity. Ciao! È una telecamera quella! Voglio riprendere tutto, giorno e notte. Così poi magari quando lo rivediamo riusciamo a capire che succede e a reagire in modo adeguato. Me lo fai un piccolo striptease? No, con la telecamera accesa no. Tu conosci dei trucchi che possano far succedere queste cose? Di qualunque cosa si tratti è già qui. Io penso che sarà molto interessante catturare qualunque dettaglio, anche mentre dormiamo. La finestra è chiusa, la porta è chiusa a chiave, l'allarme è inserito. Hai sentito? Oh mio Dio! No! C'è qualcuno lì giù? Ti prego, andiamo! Chi c'è? Fatti vedere! C'è qualcosa qui. Sento il suo respiro addosso. Aspetta! Ti prego, dove sei andato? Sono qui, amore, sono qui. Patrizia, per il cinema horror giocare con la verosimiglianza delle immagini significa coinvolgere emotivamente il pubblico, una tendenza che sentivamo prima la TV sta cavalcando, così pure ovviamente la pubblicità. Significa coinvolgerlo o forse anche scioccarlo, c'è di fatto un'irruzione della realtà nell'advertising, cioè la pubblicità comincia ad avere un linguaggio, immagini vere, un po' meno edulcorate, e c'è un caso molto interessante, quello di Parodontax, il dentifricio che ha lanciato ottobre scorso in TV e outdoor una campagna definita shock, una campagna per segnare il passaggio del prodotto dal canale farmacia a quello della grande distribuzione. Il messaggio esplicito era sul problema del sanguinamento delle gengive, il claim: se ti capita di vedere del sangue quando ti lavi i denti c'è qualcosa che dovresti sapere. Rumore di spazzolino, sputo, sangue dentro la saliva ben evidente, un dente che cade e rimbalza sulla ceramica. La campagna è stata edulcorata, il nuovo spot è andato in onda proprio in queste ultime due settimane, il claim è rimasto lo stesso ma il sangue non si vede più, sostituito da una scritta rossa solida e però la faccia di due ragazze, una con disturbi gengivali, una no, quindi una con l'aria sofferente e una che sorride. E la voglia di contrapporre vero e falso, di svelare come stanno veramente le cose nel mondo dei brand, è l'idea alla base del progetto Honest Logo, logo veritieri, a cura del designer svedese Victor Hertz, che riproduce formalmente i logo più famosi, stessi colori, stesso lettering, cambiandone però il nome e di fatto l'essenza del brand, quindi reinterpretandoli in chiave veritiera, come dire, ecco come dovrebbero chiamarsi, quindi McDonald's diventa McDiabetes, rivelando quindi gli effetti insalubri sulla salute del consumo di cibi da fast food. Apple diventa Appearance Costs, l'apparenza costa. YouTube diventa Cat Videos, a segnalare come uno dei meme più circolanti di fatto nei video della rete siano i gatti. Nintendo diventa Nothing to Do, come dire, chi gioca non ha altro da fare, eccetera. E nelle pieghe dei sistemi del gusto troviamo anche le spettinature neo-grunge cosiddette, le acconciature che anche in passerella sembrano non siano state fatte o fatte dalle modelle da sole, quindi imperfette come i capelli delle donne vere che se li fanno in casa. Quindi parrucchieri che costruiscono di nuovo finzionalmente il disordine e l'imperfezione voluta per far sembrare i capelli più veri. Ritroviamo un'attenzione e un focus sul banale, sul reale, sul quotidiano anche nella scena musicale, quella indie degli anni 10. I testi di molte canzoni sono di fatto prosaici, quasi banali ma nel senso di comuni. Esempio di un verso: comprati un mazzo di fiori che poi ti do i soldi, sono le 9 di mattina, per le analisi del sangue c'è troppo da aspettare, questo è dente. In realtà poi sono testi colti, ironici, anche densi di questioni socialmente rilevanti, le luci della centrale elettrica e il titolo di un album di Vasco Brondi, e l'amore ai tempi dei licenziamenti dei metalmeccanici e il titolo di una canzone, o ancora lo stato sociale, un gruppo che canta una canzone intitolata Amore ai tempi dell'IKEA. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a Parigi su consumi, realtà, finzione e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia! Ciao, buon pomeriggio. A tre giovani amici è bastata una semplice intuizione, e ossia siamo ciò che facciamo, per dar vita al social game One Fit. Come in ogni videogioco che si rispetti, i giocatori, dopo essersi iscritti via mail, Facebook o Twitter, devono completare una missione. Ma in questo caso non si tratta di simulare imprese più o meno impossibili in mondi e vite immaginarie, bensì la sfida consiste nel caricare una fotografia che ritrae il partecipante mentre compie un'azione di vita quotidiana, della sua vera vita, che risponda ai criteri richiesti dal gioco. Le attività imprese e il fit del nome scritto FEAT, significa appunto impresa, prodezza, vanno da semplici compiti come andare a trovare la nonna, scegliere la torta di compleanno, a imprese più sfidanti, diciamo così. Trova l'oggetto più vecchio della tua camera, fotografa un'opera di street art e così via. Il punteggio aumenta all'aumentare della difficoltà delle missioni e i punti si guadagnano non solo portando a termine la missione, ma, data la natura social del gioco, anche in base a quanto la foto caricata piace agli altri partecipanti, che come in un social network possono seguirsi a vicenda, commentare e sharare le fotografie. Grazie Alessia. Patrizia, realtà e finzione si intrecciano, abbiamo detto all'inizio, con i risultati più disparati, in un senso e nell'altro. Sì, vorrei citare in chiusura il caso di una campagna lanciata da McCann Digital per l'autority antidroga israeliana, che è un caso in cui il finto, il fake con effetto di realtà è messo al servizio della realtà. La campagna è andata in onda il 4 gennaio di quest'anno, solo per 8 giorni, su Facebook, una campagna dissuasiva per sensibilizzare i giovani 18-24 sui danni legati all'uso prolungato di droghe. È stato creato un profilo finto di un utente, Adam Barak, secondo la nuova grafica del diario Facebook, timeline divisa in due. Si vedeva un viso tagliato a metà, da un lato la faccia di Adam dopo un anno di uso di stupefacenti, dall'altra la sua metà faccia pulita. Non solo la foto del profilo, ma ogni post del diario di Adam aveva questo doppio effetto sliding doors, quindi la doppia versione delle sue due potenziali vite. Finisce qui anche questa puntata dell'antologia estiva di Essere e Avere. Mandateci le vostre idee, i vostri suggerimenti in previsione delle nuove puntate che stiamo preparando per settembre. Scriveteci a essereavere@radio24.it. In attesa di risentirci, come sempre, domenica prossima alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.